Ci siamo lasciati, è buona tu, eh? Ci siamo lasciati con Tenera Amata che spiegava tutte quante le modalità del tutto peculiari di consumazione dell'energia da parte dei corpi che sono collocati in quei paratempi piccolissimi, come i milionesimi di picosecondo dove loro si trovavano. Adesso si fa uno step successivo, perché ogni capitolo c'è qualche evidentemente novità. Allora, Tenera Amata ed io continuavamo seduti nella stanza della mia umile casa. Ogni tanto guardavo l'immobile voluta di fumo della sigaretta e l'immagine fissa del televisore, testimoni della favolosa esperienza che stavamo vivendo. No, io non ripeto, abbiamo già visto la volta scorsa perché il fumo era fermo e il televisore era bloccato sul fotogramma, no? E così ci sono anche delle cuoche nel cielo? Dice, domanda a Tenera Amata. La domanda è giustificata dal fatto che aveva concluso dicendo che in cielo mangiamo dei cibi deliziosi, anche se di questo non c'è bisogno. Qui si lavora col sudore della fronte, di là no, e ci stanno dei cibi deliziosi che si gustano solo per il gusto di gustarli, pur non essendone bisogno, cioè non essendoci bisogno. E allora a lui gli viene spontaneo, ci stanno delle cuoche in cielo? Risposta: sì, nella patria abbiamo grandi sante, esperte in preparare piatti deliziosi senza che debbano fare il minimo sforzo. Dice: ma se nella gloria eterna nessuno lavora, ma da dove si procurano la carne, i legumi, la frutta? Attenzione, eh? Ogni cibo, attenzione alla risposta, per quanto possa essere complesso, in ultima analisi è fatto di atomi e questi di energia. Ebbene, gli atomi e l'energia ci obbediscono ciecamente, al punto che col solo nostro volere, adesso facciamo un bel po' di spiegazioni qui, riusciamo facilmente a combinarli, trasmutarli, fissionarli e farli diventare cibi vistosi e succulenti. La materia energia, oltretutto, è ansiosa di servirci come alimento, di incorporarsi al nostro corpo glorificato e di partecipare alla nostra gloria accidentale. È che tutti gli esseri sono vincolati dai legami dell'amore universale. Ci completiamo gli uni con gli altri, ci desideriamo e ci possediamo all'ineffabile modo celeste. Non è panteismo, si tratta di interrelazioni. Gli atomi, mossi dall'amore universale, stanno sospirando come nelle doglie del parto. Citazione di Romani 8:2, 22, no? La creazione stessa geme e soffre fino ad oggi nei travagli del parto perché brama anche lei la redenzione del nostro corpo. Così scrive San Paolo nelle lettere Romani. Nell'attesa di ricevere da noi felicità al modo loro. Nel cielo vedrai come ogni essere è capace di avere una conoscenza è un amore per quanto possa essere in un modo rudimentale. Allora, fantastico! Voi, i beati, riuscite da soli e senza molto sforzo, molto di più che il nostro migliore laboratorio di energia nucleare. Allora, io spero che qui ci stanno delle nozioni abbastanza semplici. È chiaro che, ripeto, ci sono dei passaggi che un minimo di cultura un po' generale di fisica e di chimica bisogna averlo, ma molto generale. Penso che tutti quanti sappiamo che l'atomo è la particella elementare della materia e sappiamo anche che ogni sostanza ha una sua conformazione chimica. Cioè, per esempio, H2O è la composizione dell'acqua, vuol dire che nell'acqua ci sono, nella particella elementare dell'acqua ci sono due atomi di idrogeno e uno di ossigeno. Per cui quel particolare sapore, conformazione, colore che è incolore poi dell'acqua deriva dalla sua composizione chimica, sono atomi. D'accordo? Io adesso non sono in grado di dire che atomi ci stanno nelle patatine fritte, ma ci stanno degli atomi e dove ci saranno delle sostanze che possono essere chimicamente identificate. Cioè i sapori che noi sentiamo sono nient'altro che derivanti dal contatto di questi atomi, di queste sostanze, con le nostre papille gustative. Tutto qui. Allora, attenzione, non serve, cioè, avere la materia prima per preparare da mangiare. Basta semplicemente conoscere gli atomi e come comporli per creare sapori entusiasmanti per il gusto dell'uomo. È questo che sanno fare le grandi cuoche in cielo. Dopo gliene darò una dimostrazione, tenera amata. Quindi, atomi ed energia. Attenzione, vedete la partecipazione alla gloria di Dio? Noi, gli atomi e l'energia ci obbediscono ciecamente. Gli atomi e l'energia qui non ci obbediscono manco per niente. Gli atomi e l'energia obbediscono ciecamente a Dio, ma questi sono glorificati. Come spiega San Tommaso d'Aquino, benissimo, nella gloria Dio ci parteciperà gratuitamente, tutto contento perché ce lo siamo meritato per arrivare là sopra, i suoi poteri, le sue prerogative, in parte, evidentemente. Ma i beati sono veramente dei piccoli dei, eh? Saremo dei piccoli dei se andiamo in paradiso. Cioè, capaci di fare cose che qui ce le sogniamo la notte. Questo è il primo punto. Quindi, atomi energie, capacità perfettissima di combinarli, trasmutarli, fissionarli. La fissione nucleare è un particolare procedimento, abbiamo visto la volta scorsa. Lì bisogna andarsene un pochettino a studiare, non sono in grado di spiegarlo in due minuti. D'accordo? Vabbè, comunque. La materia energia, attenzione all'altro aspetto, è ansiosa di diventare nostro alimento, di incorporarsi al nostro corpo glorificato. Qui in paradiso ci sono una serie, lo vedremo, di incorporazioni che sono più che fusioni, non soltanto tra le sostanze e chi le assimila, ma anche, vedremo, tra le creature stesse, tra le creature e l'umanità santissima di nostro Signore Gesù Cristo e della Beatissima Vergine Maria. Ci desideriamo. Il termine e ci possediamo all'ineffabile modo celeste. Possedersi, desiderarsi, questa è grammatica dell'amore. E questo desiderio reciproco è vincolato dai legami dell'amore universale. Amici cari, Dio è amore, cioè le tre persone divine, in teologia si dice una cosa proprio che San Tommaso se l'è inventata, che è verissima, solo che detta così sembra proprio astratta. Ma attenzione, sapete cosa sono le persone divine? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. L'unico modo con cui si possono definire. Si definiscono relazioni sussistenti. Cioè, non ci devono stupire queste cose perché il nostro Dio è Trino. Lo sapete che significa Trino? Trino significa che l'uno non può stare senza l'altro, ecco perché è relazione sussistente. E la vita di Dio è un vortice ininterrotto di amore reciproco tra le tre persone. Il Padre che si dona totalmente al Figlio, il Figlio che si dona totalmente al Padre, da questo amore spira lo Spirito Santo che si riceve dall'amore del Padre e del Figlio e si ridona al Padre e al Figlio. Attenzione che Dio non può. Perché relazioni sussistenti? Perché non se ne potrebbe togliere una dalla Santissima Trinità, rimangono gli altri due, no? No. Perché se tu togli il figlio, il padre cessa di essere padre. Se tu togli il padre, il figlio cessa di essere figlio. E se togli lo Spirito Santo, cessa l'amore tra il padre e il figlio. E se cessa il figlio, cessa pure lo Spirito Santo. Ok? Perché dico questo? Perché nel creare, cioè, anche Dio è soggetto alla regola che quando uno fa qualcosa ci mette la firma, cioè in quel qualcosa che ci fa, c'è se stesso. La felicità, amici cari, questo lo sanno tutti. Se uno chiede che cos'è la felicità, è l'amore la felicità, no? Qualcuno ha qualche dubbio? Che si è felici se si ama e se si è amati, se si è ricambiati, ci vogliono tutte e due. Perché se ti amano soltanto e tu non ami nessuno, cioè non ci provi gusto, no? Cioè, e se tu ami qualcuno e quello non ti ricambia, tu resti frustrato. In paradiso non funziona così. La pienezza della beatitudine, capiamo questi, è l'amore. Anche mangiare una sostanza buonissima è un atto d'amore perché ci stanno gli atomi che bramano di unirsi a noi, di incorporarsi in noi e noi godiamo noi godremo, magari godiamo, nel fare questo tipo di operazione. Che poi Teneramata spiegherà il mangiare qualcosa di buono in questa vita, che è soggetto alla limitazione, alla temperanza, alle cose che sappiamo. È una pallidissima, lontanissima prefigurazione di questo. Sono interrelazioni. Gli atomi sono mossi, vedete come chiama Dio? L'amore universale. Sono mossi e sospirano di ricevere da noi felicità al modo loro saranno felici di entrare dentro di noi. Nel cielo vedrai come ogni essere, attenzione, ogni essere è capace di avere una conoscenza e un amore, per quanto rudimentale. Vedremo più avanti, adesso non voglio quando. Non mi ricordo se Teneramata o la mamma di Teneramata, non mi ricordo questo particolare, fa godere una mosca. Una mosca. Vedremo. Mi ero scordato dei miei doveri di ospite, riprendo la lettura, ma nel parlare di alimenti ricordai che dovevo offrire almeno un rinfresco alla mia amata visitatrice. Mi fa un po' sorridere, no? Questa è una che è abituata a ostriche e champagne, molto meglio che queste, vuole dargli un caffè, no? Dice, ma ti piacerebbe prendere una tazza di caffè? Risposta. No, grazie. Meglio, se vuoi ti preparo io una ghiottoneria celeste. E adesso attenzione, prese il mio pacco di sigarette, gli tolse l'involucro di cellofan, lo strinse fra le dita fino a formare una piccola pallottolina e me la offrì con un sorriso raggiante. Il cellofan delle sigarette. Assaggiala, sono certo che ti piacerà. Questo si fida, pia sta pallottolina e se la mette in bocca. E infatti che bocconcino delizioso. Mai prima avevo gustato nulla di così saporito. Come un fragile pasticcino mi si sciolse in bocca. Il suo sapore gradevolissimo era unico. Non riuscii a riconoscere il predominio di nessuno dei sapori fondamentali, dolce, salato, amaro, acido. Ho assaggiato cioccolati svizzeri e nordamericani, come anche marzapani e paste di mandorle, ma questa celeste ghiottoneria li superava di molto. È delizioso. Come lo hai fatto? Gioco da ragazzi per i cittadini del cielo. Ho trasformato le molecole di cellofan in altre sostanze chimiche sconosciute sulla Terra. Attenzione, ci sono sostanze chimiche che noi sulla Terra non conosciamo, le quali eccitano armonicamente tutte le papille gustative. E non parzialmente come i classici dolci terrestri. Vedete uno scarto differenziale? Una ghiottoneria celeste le eccita tutte, tutte insieme, e con sapori che sulla Terra non esistono. Tu ti mangi una cosa squisitissima qui, c'è un'eccitazione parziale delle papille gustative, non piena. Peccato che questo stesso bocconcino tu non lo possa degustare nel tempo normale della terra, capito? Cioè, lui ha potuto gustare quel bocconcino soltanto perché si trova nel paratempo. Lo spiega subito perché. E perché no? Sentite la risposta. Perché moriresti di gusto. Godresti di un piacere imparagonabile alla vita mortale. Mi fermo un attimo. Se ci potessimo mangiare una pallottolina di cellophane rielaborata da un'anima beata, se me la mettessi in bocca adesso, morirei per il troppo gusto. Capiamo? In realtà hai assaporato questa piccola ghiottoneria. Attenzione, non è finito. Meno che a metà, perché hai percepito il suo sapore per mezzo della infraenergia, altro concetto complicato, di cui ti parlerò, già che stiamo in un paratempo molto lento, nel quale non è possibile la trasmissione dell'impressione gustativa mediante impulsi nervosi, come avviene ordinariamente nella nostra vita terrena. Quindi, attenzione, è una super ghiottoneria che può godere soltanto perché si trova nel paratempo, altrimenti morirebbe di gusto. Ma per quanto si sia leccato e straleccato i baffi, ne hai gustato meno della metà del sapore piacevole. E lui risponde: a me comunque mi è sembrata deliziosa. Tu devi essere una magnifica cuoca celeste. Sentiamo la risposta. Ma no, questo bocconcino lo potrebbe fare qualsiasi beato. Direi che nel cielo corrisponderebbe al pipinole, spagnolo si dovrebbe pronunciare pinole, della terra. Leggo la nota: pinole nel Messico è una specie di farina di mais di sapore neutro, popolare, che come uso equivarrebbe in Italia alle caramente di mello, di menta o di liquirizia. Quindi, probetta. Quindi, questa non è una grande beata, quindi sa fare soltanto le cose più semplici. Dice: un giorno conoscerai molte sante cuoche che per la loro grande gloria preparano vivande davvero succulente. Negli uomini pellegrini di questo mondo il senso del gusto si trova molto atrofizzato a causa di tanto male morale. Nei beati invece è acutissimo e perfetto. Non puoi immaginare come cerchiamo di attirarci le simpatie di queste sante esperte in gastronomia. Io qui non vorrei essere offensivo, ma già mi sento dire, perché già mi sono arrivati commenti, mail, degli sciocchi che, non comprendendo bene queste cose, cominciano a fare le spallucce, oppure a fare, come dire, gli spregiatori. Se ti pare che in paradiso, mo, questo sta a descrivere il paradiso come queste cose qui. Non si riesce a capire, cioè, un concetto fondamentale. Il gusto che noi abbiamo anche in questo mondo, perché io ce l'ho le papille gustative, è una cosa che viene da Dio. Le papille gustative me le ha create nostro Signore. Non me le sono fatte da sole. Il maledetto peccato Che cosa ha fatto? Primo, il gusto lo ha atrofizzato e secondo, lo ha squilibrato. Nel senso che la mia volontà ordinariamente non è capace di moderare gli impulsi del gusto. Ecco perché esiste il vizio capitale della gola. Credo, non so se ne abbiamo parlato già in questa sede, da cui bisogna stare molto attenti. Per cui da un lato io non mi posso abbandonare a godermi tutti quanti i gusti possibili e immaginabili. Dall'altro, se anche lo facessi, supponiamo che non diventassi obeso, come ci divento e non ci devo diventare, comunque sarebbero gusti che non riesco a gustare in pienezza, perché il gusto qui si trova atrofizzato. E qui c'è anche San Tommaso d'Aquino sotto. Perché San Tommaso d'Aquino, quando parla della umanità santissima di Gesù e di Maria, la definisce perfettissima in relazione anche alla perfezione assoluta dei sensi. Lui ne parla quando cerca di farci capire qualcosa della passione di nostro Signore. La passione di nostro Signore fu di una intensità per lui inimmaginabile. Cioè, se a noi ci massacrassero, perché è stato un massacro, come hanno fatto a Gesù nei confronti della flagellazione, è chiaro che soffriremmo in maniera inaudita. Ma inaudita. Supponiamo che a me mi prendessero e mi facessero esattamente la stessa cosa che hanno fatto a Gesù, proprio la stessa flagellazione, lo stesso numero di colpi, negli stessi punti, il dolore sarebbe inimmaginabile, sarebbe atroce, ma sarebbe un nulla in confronto a quello che ha subito lui. Perché il mio tatto non è perfettissimo come nello stato di natura integra, come non è perfettissimo il mio gusto, nella mia vista, nel mio udito e nel mio odorato, perché tutto qui è peggiorato, tutto qui è degradato, tutto qui è diverso da com'era. Qui lo spiega, anche in relazione al gusto. Ed ecco come adesso una considerazione di Riccardo fa cadere le obiezioni degli sciocchi che prima di leggere bene e di capire bene, perché amici, cioè io vi raccomando su tutte le cose, guardiamoci sempre dai giudizi di pancia a reazione immediata. Oh! Stati calmo, 5 minuti. Anche quando ci parla qualcuno, ci parla qualche persona, stati calmo 5 minuti prima di ribattere, di alterarti. Aspetta, specialmente quando c'è davanti una persona che non ti pare essere un cretino o uno sprovveduto. Aspetta. Considerazione di Riccardo. Io credevo che nel cielo, dinanzi alla visione beatifica, i glorificati se lo dimenticano tutto il resto. I piaceri dei sensi, il godimento estetico delle belle arti, altri amori e amicizie. Chi di noi non penserebbe una cosa di questo genere? Ma la visione beatifica. Tu vedi la Santissima Trinità. Ti immergi nei vortici dell'amore di Dio. Ma figurati a te. Che pensi a queste cose? L'obiezione, per carità, ci sta. È spontanea. Ma ascolta la spiegazione, però. È vero, dice Tenera Amata, che la nostra gloria essenziale, cioè la visione beatifica e il possesso amoroso del nostro Dio, sarebbe sufficienti per farci assolutamente felici. Assolutamente significa che più felici di così non si può. Ma noi non conosciamo bene il nostro Signore, però così. Perché il nostro Signore strafa. Ecco i legami con la divina volontà. Quante volte Luisa negli scritti, quando parla di questo qui, dice: vuoi vedere? Nostro Signore non ti dà, nostro Signore c'ha tanti di quei beni, ti rimpinzerebbe e te ne darebbe ancora di più. Nostro Signore è un gran Signore, non è un pitocco come noi, un pulciaro come noi. Lui a cascate ti ubriaca di beni, non bastano mai. Certo che basterebbe, ma non basterebbe alla sua infinita magnificenza. Al suo volerti far godere sempre di più e sempre in modi alternativi e sempre più belli. Questo. Ma voi capite cosa significa farsi dentro il cervelletto nostro una tale immagine dell'Altissimo? Che non toglie il fatto che per andare in paradiso te lo devi guadagnare, te lo devi sudare, non devi peccare, devi fare penitenza, devi pregare. E in vista di questo, lo capisci pure perché no? In vista di cose tanto grandi, ma che saranno mai? Quattro sciocchezze che facciamo qui su questo pianeta Terra. Sciocchezze. Per quanto mi riguarda, qualunque cosa di possibile mettere, sono sempre sciocchezze. Dinanzi a tutto questo. Ma lui, riprendo la citazione, per l'amore indicibile che ci porta, ha disposto che godiamo inoltre la nostra gloria accidentale, oltre a quella essenziale. Il concetto di gloria accidentale è noto, aprire la Summa Teologia di San Tommaso d'Aquino ancora, che dice lui stesso che beati hanno innanzitutto la gloria essenziale, cioè la visione beatifica, ma la gloria accidentale che godono in proporzione del grado di gloria che hanno raggiunto. Cioè diletti non collegati direttamente alla visione beatifica, ma ad altri beni esistenti in paradiso. E che cosa sarebbe questo qui? Un infinito numero di amori umani, angelici, estetici, scientifici ed altri ancora sconosciuti in questa terra. Ce ne stanno alcuni che sono sconosciuti. Infinito numero di amori umani. Le persone che non dilatano un pochino il cervello, qui bisogna dilatarlo il cervello. Però io ho mio marito e mia moglie, e come facciamo che poi in cielo, oltre a mio marito e mia moglie, che c'è pure qualcun altro? Ma non è che questi scritti mi destabilizzano un po'? Aia, dico, lo vuoi capire che noi qui stiamo in uno stato di proprio interdizione, sono due mondi completamente differenti. Non puoi tu affacciarti, andare a rappresentarti di stare in cielo con la capoccia che c'è sulla terra e con le leggi che c'è sulla terra. Più avanti spiegherà che Dio su questa terra vuole il matrimonio monogamico e guai a te, a chi lo viola o a chi ne esce. Ma questo è dovuto alla presenza del peccato. Ed ecco perché le catechesi sul peccato originale sono importantissime. Uno dei motivi per cui non si possono vivere qui gli amori umani multipli è che non potresti mai viverli senza che si muova la concupiscenza. È impossibile in questa vita, a meno che Dio non faccia un miracolo. Io non mi posso accostare, pur essendo prete, anche se ho i sentimenti più puri e più santi, noi dobbiamo stare sempre attenti. Cioè, un sacerdote degno di questo nome non sente amori, ve lo confesso, libidinosi verso nessuno. Può sentire l'amore di padre, può sentire l'amore di fratello, ma non può viverlo l'amore di padre, l'amore di fratello verso un estraneo. Cioè, se io ho mia sorella dentro casa, mia sorella di sangue, quella è mia sorella, ma una creatura che mia sorella non è, purtroppo. Anche se io non voglio, se comincio ad avere qualche contatto, che succede? Che succede, amici miei? Arrivateci da soli. E quindi qui non è possibile. E quindi il Signore, questo lo anticipo, ha blindato questa cosa attraverso il matrimonio monogamico. Per evitare i disordini plurimi della vita e della promiscuità sessuale, tra l'altro, ma non solo. Ma tu non puoi pensare che di là è così, perché per esempio su questo, l'abbiamo già visto nel ciclo di catechesi sul peccato originale, già nostro Signore ha detto che di là non è così, perché non prendono mogli e non prendono mariti. Quindi la caratteristica tipica dell'unione sponsale, che è la sessualità, non c'è. In paradiso il sesso non c'è. Guarda un po'. Quelli che considerano il paradiso sulla terra il sesso, quanto si sbagliano di grosso. Gestamanca all'inferno, ma ci sta all'inferno la retribuzione per aver degradato la vita a panteismo sessuale. Il sesso c'è solo sulla terra, eh? Questo dato che solo qui. Non c'è in paradiso, non c'è in purgatorio, non c'è all'inferno e non c'è nel limbo, non c'è più. Tutto questo pansessualismo, tutte quante queste cose, tutte ste pazzie che stanno girando. Io sto leggendo questi giorni, sto vedendo tweet o cose di questo genere. Guarda, l'altro giorno non ho letta una. C'era un tweet di una tizia che dice: "Ah, io odiavo La Divina Commedia perché nell'inferno Dante era omofobo." Io ho riletto questa cosa e dico: "Ma dico, eh? Dante era omofobo." Si leggono queste cose in giro adesso. Vabbè, parliamo di cose più belle. Quindi, amori umani. Angelici, con gli angeli, sì, con gli angeli. Estetici, sì, di contemplazione di cose stupende, ma ci sono delle cose belle. Io su Instagram ci vado poco, ma ogni tanto ci stanno dei reel su Instagram, fatti probabilmente da professionisti e gente bravissima, ma che si vedono dei posti, montagne, mari, atolli. Dico, ma queste cose esistono veramente sul pianeta Terra? Se uno va a un posto del genere, come sta la nostra vista? La nostra vista gode in un posto del genere, o no? O soffre? E quel godimento non è un ti amo del chi l'ha fatte quelle cose? Chi l'ha fatte e per chi? Se uno si vede un bel film, non gode? Poi glielo chiederà Riccardo, se ci sta al cinema, l'altro mondo. Ci sta di molto meglio. Ma attenzione, il diletto che si prova. Che cos'è il diletto che tu provi vedendo un film? È un diletto sensibile, no? Ci sono delle cose che vedi soprattutto e dei suoni che senti. Non c'è altro un film, eh? Certamente, poi c'è anche la trama che coinvolge le nostre facoltà cerebrali oppure anche emotive che ti coinvolge, ma questo è un film. È un diletto estetico. E che in paradiso niente? Niente? Come no? Quanti ne vuoi? E quelli scientifici? Vogliamo parlare di quelli scientifici? Quanto siamo contenti? Questo chissà. Magari un po' più di quando capiamo come funziona qualcosa. Uno rimane, mamma mia. Oh. E quante ce ne staranno di queste cose? Ed altri ancora sconosciuti in questa terra, altri amori sconosciuti in questa terra. Che altro ci starà? Tocca andarci per togliersi questa domanda. Quindi vediamo quello che dobbiamo fare. Senza contare, riprendo la citazione, gli incalcolabili piaceri della vista, dell'udito, dell'olfatto, del gusto e soprattutto del tatto. Guarda un po', il senso maggiormente connesso con il sesso. Il sesso non c'è, ma il senso che gode di più in paradiso è il tatto, il quale, come poi vedremo, non si limita alle sole papille tattili della pelle, come qui avviene, ma comprende tutte le cellule dell'organismo, le quali godono e ci fanno godere indicibilmente nelle nostre compenetrazioni amorose. Compenetrazioni. Non c'è soltanto un contatto esterno, cioè se a me qualcuno mi stringe la mano, io ne provo un diletto. Pensate che bella anticamera dell'inferno che ci hanno fatto fare negli ultimi 2 anni, detto fra me e voi, non puoi neanche stringerti una mano. Proprio. Vabbè. Se a me mi fanno una carezza, io sento un godimento. Se ricevo un bacio sulla guancia, da chi può darlo a qualcun altro sulle labbra, oppure un bacio bacio, c'è sempre un contatto, ma è sempre un contatto esteriore. Sono le papille tattili della pelle o di altri organi, ma è sempre un contatto esteriore. Non c'è una compenetrazione. E in paradiso sì. E questa dà un godimento incredibilmente più grande del semplice contatto tattile. Ci fanno godere indicibilmente le nostre compenetrazioni amorose alla maniera esultante del cielo con tutta la creazione. Va bene? Bene. Questo riprende tutto gasato, tutto contento. Favoloso. Godere senza lavorare, dilettarsi senza fatiche, assaporare cibi prelibati senza doverli pagare, odorare profumi delicati, contemplare bellezze come quella della mia amata visitatrice. È un paradiso, tutti quanti bellissimi, eh. In paradiso i mostri non esistono, ma non solo non esistono i mostri, non esiste niente che non sia bellissimo. Anche io, anche tu, se vai in paradiso, sarai bellissimo. Bellezze come quelle della mia amata visitatrice. Poi lo comprenderemo perché non soltanto saremo bellissimi, ma potremmo anche plasmare il nostro corpo in tante forme senza andare a spendere i soldi per il lifting come i ridicoli fanno qui su questa terra, pure a 80 anni che sembrano che de cartapesta, d'accordo? Con le chirurgie plastiche, tutte queste cretinate qua, con i trucchi, con gli smalti, con gli impicci, tutte queste robe qua. Contemplare bellezze come quelle della mia amata visitatrice e possederle amorosamente al piacevolissimo modo celeste mediante l'ineffabile compenetrazione con loro. Più avanti intravidi la meraviglia di questa compenetrazione fisico-spirituale tra i beati. D'accordo coi disegni divini. Glielo fa vedere? Sì, glielo farà vedere. Lo vedremo. Non potei fare a meno di ringraziare Dio di avermi chiamato all'esistenza. Vogliamo fare 5 minuti di silenzio? Cioè, siamo stati chiamati all'esistenza. Noi siamo destinati a tutta questa roba qui. Ma di che vogliamo parlare? Per avermi dato la natura umana e non una natura puramente materiale o vegetale o animale. Perché la nostra natura umana godrà infinitamente di più di quelle materiali, di quelle vegetali o anche di quelle animali, che godranno anche loro però, eh. C'è qualcuno che va dicendo stupidaggini che gli animali hanno l'anima e che vanno in paradiso. Gli animali non vanno in nessun paradiso, non hanno nessun'anima capace di vedere Dio. Ma gli animali, poi ci arriveremo, hanno un tempo di essere. Un cane campa 15 anni circa, un gatto campa 15 anni circa, un cavallo un po' di più, una trentina d'anni. Ora, questi 15 anni per loro, nell'eternità creata, come vedremo nella quinta dimensione, è lo spazio temporale in cui per tutta l'eternità godranno. Da chi? Da quelle creature che sono state preposte per una volontà di Dio ad avere un legame con loro. Io dopo che ho letto queste cose, Ho capito, io ci ho avuto diversi cani nella mia vita. L'ultimo si era legato tantissimo a me, il primo era legatissimo a mia sorella, per esempio. Il secondo un po' a tutte e due. Mo' ci stanno i felini, ma io le vedo alcune cose, no? E quando mi riguardo dico che fanno tutti contenti quando vengono in braccio, ti fanno le coccole, le cose, gli impicci, si fanno capire a modo loro. Io mi riguardo e dico, a parte che io sono pure un prete, quindi ti è andata particolarmente bene, dico, ma dico, ci rivedremo qua. Ci rivedremo, perché quando ritorno, vedrai che cinematografo che succede, che 48 che succede. Quindi, ecco perché nella messa diciamo è veramente cosa buona e giusta, il nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo. Cioè, conoscere queste cose e facciamola finita di starsi sempre a lamentare. C'hai le croci? Ma straringrazia nostro Signore perché più ce n'hai e meglio le porti e più in alto andrai in gloria. Qual è il problema? Stiamo vivendo un tempo difficile, devastante, è il tempo che è sotto l'egida del diavolo. Stiamo nello grande, pr primo grande scontro escatologico. Sì, perfetto. Adesso ci sembra tanto, tanto maggiore perché. Chi vive alla grande questo tempo, chi rimane fedele al Signore, chi conserva la fede, l'amore a Dio, affronta gli eventi. Ma e quanto alto andrà in paradiso? Grandi prove richiedono grandi premi, o no? Chiamano grandi premi se le superi. Quindi siamo stati iellati? Beh, dipende dai punti di vista. Perché potremmo anche pensare che siamo stati fortunati. Perché se superiamo la grande le prove, insomma, eh. Allora, ringraziare per averti chiamato all'esistenza come essere umano. Insomma, siamo inferiori soltanto agli angeli. E però il figlio di Dio si è fatto uomo, non si è fatto angelo. Per avermi redento. Amici cari, qui chiudiamo tutto quanto qui, eh. Se quel grandissimo Dio e Signore nostro, unico Dio, unico Signore che deve essere predicato a tutti, nessuno escluso, andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo a ogni creatura, che è l'unico Salvatore, tutti in ginocchio davanti a Lui, tutti in ginocchio davanti a Lui. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega in cielo, in terra e sottoterra. Se lui non fosse morto per me, non avesse patito. Queste cose ce le sognavamo, perse per colpa nostra, perché il maledetto peccato ha fatto diventare una cosa molto peggiore di quella che era questo mondo. E le porte del cielo erano serrate. Manco San Giuseppe era andato in paradiso prima del Venerdì Santo. Questo ce lo mettiamocelo bene in testa, eh. San Giuseppe non stava in paradiso prima del Venerdì Santo, anzi del Sabato Santo. Manco San Giuseppe. Avermi redento. E quegli sciagurati, disgraziati, che sono buoni ma che andano a messa la domenica. A rendere il dovuto ringraziamento a chi è morto per loro. Che Zoboni manca in ginocchiarsi durante la consacrazione quando quello che lui ha fatto sul Calvario si rende presente davanti ai nostri occhi. Ma che sta a fare in piedi come uno stoccafisso? C'era Padre Pio, che forse aveva le antenne dietro la testa, che allora si celebrava versus Deum, che se si accorgeva qualcuno stava in piedi durante la consacrazione, da vedere lui che faceva. In ginocchio! Che te sta in piedi? O seduto, come vabbè, lasciamo perdere. Ringraziarci per averci redento. Oh, e poi per avermi creato nel XX secolo e non all'epoca delle caverne, dice lui. E che merito ce ne abbiamo noi? Sì, adesso questi sono tempi un pochino più calienti. Ma è indubbio che, sì, pur con tante cose negative, amici cari, cioè, voi vi rendete conto che significa? Adesso lasciate perdere che parla Don Leonardo. Ma se noi fossimo nati 100 anni fa, voi non avreste mai conosciuto Don Leonardo o chi per lui, lasciate perdere che so io. Vi rendete conto che cosa significa? Che adesso anche in diretta, cioè io sto a casa mia, in canonica, sto parlando. Sto facendo una catechesi e tu te l'ascolti tranquillamente seduto in casa tua, dove ti trovi, davanti al telefonino, c'è chi collega al computer, c'è chi addirittura ha collegato il computer alla televisione, così vede la faccia grande, magari con l'impianto Dolby. Ma che vi sembrano cose da niente queste qui? Guardate che ai tempi del santo curato d'Ars, io non mi sto paragonando al santo curato d'Ars, attenzione, non sono neanche mezza unghia del santo curato d'Ars, però per far capire un concetto. Avevi sentito dire che c'era un parroco che faceva bene il catechismo? Ah, ti dovevi mettere la strada sotto i piedi, o se avevi un po' più di soldi, salire su un bel cavalluccio e andartene ad Ars. Per cui lui faceva il catechismo alle 5 del pomeriggio in parrocchia. E non c'erano registratori. Cioè, questo che io adesso faccio, cioè, le puntate di Tenera Amato, io sono contento, ma non perché le sto facendo io, perché queste cose sicuramente fanno bene alle anime. Io sto semplicemente leggendo e commentando, io non faccio mai niente di mio, io faccio sempre qualcosa che ricevo da altri e mi limito semplicemente a metterla a disposizione, perché noi siamo servitori, io non sono nessuno, ok? Te lo vedi su YouTube, te lo senti su Spreaker, te lo senti su Spotify, te lo senti su Google Podcast, io ho l'iPhone, mi piace di più Apple Podcast e te lo senti su Apple Podcast. E quando arriva una puntata nuova, ti arriva la notifica, uè, c'è un aggiornamento. Ma queste sono cose. Cioè, è chiaro, dici, ma questo per un sacco di gente è il male, è l'inferno. E che ce ne porta a noi? Per me no. Per me non è per niente il male e l'inferno. Per me questo è un modo per diffondere il paradiso. Però, perché siamo nati nel 2022? Io sono nella fase di transizione, io quando ero ragazzino. Quando ero ragazzino, avevo il cellulare. Io mi ricordo quando dentro casa entrò la televisione a colori che sembrava un evento. Ma che mi potevo mai immaginare che sarebbe arrivato? Cioè, era la fantascienza. Adesso a me sono detto quando avevo 12 anni. A 12 anni mi ricordo c'era a casa di un amico, c'aveva il Commodore 64 con i videogiochetti. Andavamo tutti là dentro. E che è sta roba? Io l'ho vissuta queste cose, quindi l'ho vissuta la transizione. Cioè, ho avuto anche questi entusiasmi. I ragazzini che nascono oggi, che sono nati col cellulare in mano, non si rendono conto anche del passaggio epocale. È chiaro che questo c'è il rovescio della medaglia. Tutto questo i grandi della Terra lo vorrebbero utilizzare per far diventare la Terra un inferno. Ma facciano quello che vogliono, io non noi ne faremo un altro uso. E questa è età. Ma non vogliamo ringraziarne il Signore. Poi, ringraziamo per avermi perdonato le mie iniquità, per la sua generosa provvidenza durante la mia vita, per aver avuto con me tanta pazienza, per la sua larghezza nel presente, che ci ricolma di beni già adesso. E per quella futura che incominciava a scorgere. Vedete gli effetti che producono queste cose? Oh, stiamo ancora. Qua non abbiamo manco cominciato ancora, eh? Lui ancora non sa niente, ma per queste poche cose che ha visto, quindi sti picosecondi, ste energie e la pallottolina del cielo, la fa, ne già non capisce più niente. E matura nel cuore questa immensa gratitudine verso l'Altissimo. Ma tornando al delizioso bocconcino, abbiamo quasi finito, abbiamo anche il tempo quasi scaduto, dissi alla mia compagna, suppongo che ormai non ti piacerà più il nostro pozzole, né il mole di tacchino, né la frutta candita. In nota, Don Pablo ha scritto piatti tipici della cucina messicana. Sbagliato. Certo che ci piacciono ancora e molto volentieri li mangiamo, ma molto ben fatti, senza nessun difetto culinario. Hai visto? Qui anche i migliori cuochi ogni tanto se possono sbagliare, no? Mia mamma era una bravissima cuoca. Ogni tanto però qualcosa gli veniva. Era tutta mortificata. Diceva, oh, io cucino sempre allo stesso modo. Ci metto sempre gli stessi ingredienti. Però delle volte non viene buono. Incidenti della vita terrena. In paradiso queste cose non succedono. La stessa cosa dico delle bibite, vini, liquori del cielo che superano i migliori di questo mondo. Capito? In cielo stanno le bibite, i vini e i liquori del cielo però. Anche qui qualcuno si scandalizza, i liquori, il vino. Scusate, ma io la messa con che cosa la celebro? Col vino, no? Ma i monaci, dove vengono fatti i più buoni liquori e amari di questo mondo? Nelle distillerie dei monasteri. I frati di Norcia fanno una birra buonissima, che è la Nurzia, non voglio fare pubblicità, no? Con l'alcol qui dobbiamo stare attenti, certamente, perché l'alcol è pericoloso. Ma San Paolo stesso un bicchiere di vino raccomanda di prenderlo a Timoteo. E San Benedetto nella regola due bicchieri di vino a pasto per i monaci. Due bicchieri di vino, insomma, se me li bevessi io imbriacherei, eh? Io non li leggo. Allora, e tutto questo senza bisogno di mercati, né discutere sui prezzi, né asfissianti cucini, né piatti da lavare. Perché c'è pure questo problema. Non ci facciamo una bella magnata, eh? Punto primo bisogna cucinarle quelle cose e punto secondo poi bisogna pure lavare i piatti e le pentole che te fanno passare la voglia. Non ti meravigliare di quanto ti dico, ricordano che nostro Signore Gesù Cristo, nostra causa esemplare, questo è alto tomismo, causa esemplare, mangiò con gli apostoli poco dopo la sua risurrezione. Gesù ha mangiato. E non ha mangiato soltanto per dare la dimostrazione che era veramente risorto. E non solo ha mangiato, ma ha anche detto, in nota lo trovate, dice, ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima del mio patire, perché vi dico, non la mangerò più fino a quando non avrà pieno compimento nel suo regno, nel regno di Dio. Non berrò più del frutto della vita fino a quando non lo berrò nuovo nel regno del Padre mio, lo dice Gesù. Quindi il frutto della vite era una cosa buona. Gesù certamente ne faceva un uso ultraparco, non lo beveva quasi mai, ma per penitenza, per noi. E anche noi possiamo farlo. Ma fino a quando non lo berrò nuovo nel regno del Padre mio, lo dice lui stesso, lo dice. I facili a scandalizzarsi, per questo devono stare cauti, lo dice lui stesso che lo beve nuovo, il vino nel regno del Padre suo. E allora? Non ti piace tenera amata? Va bene, lascia perdere tenera amata, ma lo dice Gesù, lo dice. Non ti piace manco il Vangelo? Riccardo dice, che meraviglia, come vorrei essere già nella gloria? La risposta che è il congedo anche per noi. Collabora dunque col tuo Redentore, raggiungi con le tue opere buone di cristiano la beatitudine che lui tiene preparata per te. Non ci si va in paradiso senza le buone opere. Non ci vanno tutti in paradiso. Questa roba, nostro Signore non la dà a tutti. E fa, ah, non fa niente con le cose che hai fatto e vieni e godi. Ma quando mai? Non date retta a chi va propalando queste cretinate, anche se c'ha l'abito. Non gli date retta. Dio certamente ci ha creati per il paradiso, ci vuole portare lì, ma per andare in paradiso ci vogliono le buone opere, ci vogliono i sacramenti, ci vuole la preghiera, ci vuole la penitenza, come ci ha insegnato San Francesco festeggiato di ieri. Se no in paradiso non ci andiamo. Bella tutta questa roba qui. Il nostro Signore non vede l'ora di darcela, ma non di regalarcela a babbo morto. è comunque un regalo. Perché lui l'ha inventata e tra l'altro lui c'ha il redento. Se non ci avesse i redenti, ce la sogniamo la notte questa roba qui, eh? L'ho già detto. Ma ha messo delle condizioni. Questi sono beni inestimabili. Dio non li dà i suoi beni inestimabili a chi non si mette in condizione di riceverli, neanche in questo mondo. Figuriamoci nell'altro. Quando l'avrai raggiunta, vedrai di quali banchetti godremo. E lui dice, e quando sarà questo quando? Esclamazione comprensibile dinanzi a tanto ben di Dio, però la risposta è, la do io, quando Dio vuole. E la prossima volta inizieremo il paragrafo settimo.